prende solamente il cuore. Questa malattia, l'amore, incomincia a questa età. Non ha senso senza te. Penso che potrai guarire e mi sento già morire. Una cosa brucia in me è l'immagine di te. Senza te.